Luca, ci sei? Luca, Asco, non mi vogliono caricare la carta che hanno il terminale rotto. È zitta! Perché è da così basso? C'hanno il terminale rotto, non mi vogliono caricare la carta. Come si può fare per pagare questo cazzo di IB? Il terminale è rotto, dice. Ma ti devono pagare loro a te. Come devono pagarmi loro? Il re, cos'è che detto? eBay, come fai a pagare un oggetto su eBay? Devo comprare un oggetto. Perché pensa questo male? E c'è nel terminale rotto loro, è possibile. È impossibile. Magari il tuo è il difetto, non di loro. No, hanno il terminale rotto e la carta non me la possono caricare. Il tabacchino, mi capito? È un bel casotto. Va bene, il carrello l'hai messo? No, compralo subito, è quello. Bel casotto. Quando è che stamattina questo qua del latte dolce? Non c'aveva connessione. Ogni tanto la c'è un Mario che ci butta. Solo quella carta è un casino. Se non ne hai altre di carte. Oh, è scarica, carte non ne ho altre. Non puoi fare niente allora, Antali, non si può fare nulla, nulla di nulla. Casotto. Vedo un rompimento di scatole. Vai a un altro tabacchino. Non penso lo dicono. Vabbè, ma mi tocca cambiare la macchina, gatto, mia moglie non vuole andare su, che vai in Puglia di Mazzeda, che dici che non garrigheggia, chi su. Lo fanno, dove? Anche via Pascoli, mi sembra. Sì, via Pascoli. La mia vicina che va è via Pascoli, via Lamberto non lo so se lo fa. Ma no, mi tocca pigliare la macchina, poi non trovo parcheggio, è un casino, non ne voglio cavare la macchina per questo motivo. Ti va una passeggiata, Natali. Se mi vuoi camminare non devi andare da più. E domani? Vabbè, se lo trovo domani. È un casino lo parcheggio, che c'è, è vero. Vai via Sorsoli, i parcheggi si acciappano sempre, i Natali comunque. Un bel di voi, ma anche in via Sorsoli una gatto. Ma è quella delle validità, non te l'hanno dato perché? Scusa. E cosa? Il cartellino. Non ne ho chiesto io. Sono il 75% solo. Non te ne danno, non ho capito. Ti avrei aiutato io, ma anche a me stamattina mi ha detto che non c'aveva connessione. Io non ne lascio soldi, perché se no me ne fottono i soldi. Cazzo, me li hanno già fottuti due volte i soldi dalla carta, quindi non ne lascio mai. Pago questo che devo pagare, così ti non ho finito. Però vedi, ma come fanno a prenderti i soldi, a tagli? Nessuno ti ripiglia, a meno che non è qualcuno che ha i tuoi dati. Cazzo, se no ti ripiglia nessuno, capito? Se ti copiano l'account, allora è un'altra cosa. Allora devi giambaccarti, io la giamba da baghisso. Dove vuoi che la giamba da basso attaccani a come ti possa ma? Perché adesso ho fatto il coso di sicurezza, se non mi mandano il messaggio per telefono col numero di codice non pagano. Infatti, vabbè, cioè, intanto la usi poco, la carichi quando ti serve, quello sì. Infatti. Un macello, cosa la uso? Se devo pigliare qualcosa su eBay, su Amazon. Due carte ho già fatto distruggere dalle poste, perché mi hanno rubato i soldi. Guarda che su Amazon puoi pagare anche a rate adesso. Puoi pagare anche a rate. Con 100 euro di spesa mi sembra che sia. Ehi vabbè, chi tu a rate lo paghi? Se lo trovi su Amazon sì, prendi una putti. Capito? Se lo trovi nuovo, se lo trovi su Amazon lo puoi fare, e beh non evasi. Amazon sì, anche se è rate la puoi pagare la cosa, è una comodità. Se no si chiama Cofidis, capito? Cofidis, fa paghi anche in 6 rate, senza interessi. Mi assento un attimo. Ok. Ci siete? Perfetto, ci sei. Hola, c'è qualcuno qua su 10? Brizzella, Brizzella, Gazzarella, Pedivella, Gargamella. CQ canale 10, CQ canale 10. Attenzione, si ascolti il doppio rum che parla, cambio. Buonasera, con chi abbiamo l'onore? Ciao Mario, dai. Gianni da Sassari, con due fatte, come sta arrivando? Guarda, uno, due, tre, prova, cambio. Da dove stai modulando tu esattamente? Dalla macchina? Ah, cappa. Ma non è tratto nessuno stasera, non ho scelto nessuno, boh. Ascolta, abbasso un watt, mi ascolti? Sto abbassando un watt. Guarda, la radio si è aumentata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cappa là, vediamo un po'. Prima, vabbè, stavo... E adesso ne provo un altro di apparecchio. Questo qui era da un po' che non lo usavo, questo apparecchio. Era da un po' che non lo trattavo. E quindi l'ho voluto accendere, dai. Santiago 7, sì, dai, la radio è 4. Guardami adesso, un attimo, io ho alzato appena appena. Aspetta, ecco. Prova, va. Allora, ti spiego, questa è la prova a manetta, ora. Vai da 7 a 9, vai. Ci avrai un 100 watt. No, che stai favellando già. Porto Torres, cava. Sì, stai uscendo da 7 a 9, vai. Ciao Luca, mi sentite avanti. Ciao Gio, che stai parlando? Eugenio. Con Mario. Ah no, non lo sento io. Mi sono fatto la doccia, mi sto vestendo, aspetta. Fai, non ne vogliamo gente nuda, specialmente se sono maschi. Sono anche senza mutande, se ti interessa. Va bene, dai, allora veniamo a cena stasera. Dai, scherzo, naturalmente. Roba buona, roba di mare stai preparando. Ho detto, roba di mare stai preparando. Cava. Lucrezia, ci sei? Lucrezia, ci sei, sola. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Hola, attenzione, canale 10, si ascolta tutto più lungo che chiama, cambio. Natalino, Claudio, Natalino, Natalino, e beh, e via, non ti dà coscio e nessuno risponde. Roberto, Natalino. successo? Come mai non c'è nessuno? Sono già le 7:30. Vi svegliate? Non c'è nessuno. E come mai? Ah, fatti voi cagliare, che se no piove. Ecco qua, ciao già, buongiorno, anzi buonasera. Ciao G, come stavo rispondendo a un'amica che mi stava chiamando, mandando un messaggio. No, stasera siamo entrati io, Luca, e poi c'era Porto Torres, Mario. Poi si è messo a cucinare, Mario ha detto che ci mollava. Luca se n'è andato a farsi la doccia e poi non è entrato più nessuno. Ma ci saranno all'ascolto, saranno tutti gruareci di buco. E allora, tutte quelle orecchie pelose. E tu assaggiando con un'amica, un vecchio mandrillo. Mai perdere il vizio. Mai perdere il vizio, c'è un casino. Aiuto, ricopritemi. Da bravi. Fate da bravi, aiuto. Venitene fuori. Buonasera, ma c'è freddo fuori però, ci vuole il cappottino. Ecco qua, un altro. Chi è così basso? Ciao Giulio. Ciao, non è Salino, chi è? Cristian? Capo di Roger. Buonasera. Sempre basso ti sento. Ma da dove stiamo andando? Dalla banda mobile, vicino a Sant'Orsola. Vicino a Sant'Orsola? Eia. Mi arrivi così basso. Non lo so perché. Ciao Cristian! Ciao Giovanni! Dove sei a Sant'Orsola? E lì vicino, sotto sulla sud. Prova a vedere quanto sei di segnale. Oltre alla, come mi senti, chiaro? Io forte e chiaro, sì. Non lo so, oggi non fosse a produttore, ti sente bene. E il microfono com'è? Ancora sempre... volumate strano? No, adesso va benissimo. Ma sì, avevo fatto io dal microfono, Che cos'era? Non ho fatto niente, ma manco toccatelo. Non lo so, ieri non si poteva... Ah, non lo so se no questa è stazionale, che cosa, non lo so, però ci fa male di andare, tutto è passato, oggi tranquillo, anzi, ho messo un po' di peccato in più anche. Ma hai cambiato la batteria? No, neanche. Io già ti sento bene, oggi ti sento bene, dico che ti sento bene, ma se ti sento male, dimmi. Ma so già che tu sei sincero, non ho problemi, non so. Cristian, ditemela. Sì, in macchina o a casa? In barra mobile. In macchina? In macchina sono, caro. Ah, ho capito, in macchina, ho capito. Ma se mi senti da qui alla macchina, la macchina del produttore, vuol dire già va bene come antenna, dai. Cosa ha detto già? Se mi senti dalla macchina, vuol dire che come antenna va bene. Ha detto che se lo senti dalla macchina, vuol dire che l'antenna va bene. Sì, ma bassissimo, non muove manco lo smitter. Niente, il livello proprio QRM. Però volte riesco a capire, volte no. E poi voglio fare una prova, Eugenio. Voglio vedere con questo apparecchio com'è. Cosa hai detto? Con il segnale con questo apparecchio? Dammi il segnale, guarda, 1, 2, 3. Ola. 9 e 10 modulati. Che ora gara? Qui sei bassissimo per... A me mi senti basso? Ma tu sì, ti sento bene. Ma sei in movimento? Adesso sono parcheggiato e fra un po' mi muovo, dai. E invece così oggi come mi senti? Sei sceso a 9. Cavalava. Aspetta, voglio capire dov'è Cristian, cosa sta facendo, non lo sento, un casino. Cristian! Dimmi, Ege. Stavo dicendo, ma sei in movimento in macchina? No, sono fermo vicino a Sant'Orsola, sono in mezzo agli alberi. Ho capito che sei vicino a Sant'Orsola, però... È in mezzo agli alberi! È in mezzo agli alberi a Sant'Orsola, ho capito. Dismoscati! Fra un po' dismosco, che devo andare nell'altra di Sassari. Ma che antenna stai usando? Lunga? Una lemma da 1,5 metri. Un metro e mezzo lunga, ho capito. la base magnetica. K. Io sempre, io capato le buche in macchina, non ho voglia. Piazza la casa, cosa in macchina, piazza la casa. Non ci sono energie a casa, cioè, io vivo in macchina dal pomeriggio alla sera, vado a dormire solo me, dalle 9 in poi sono a casa io. Cosa hai detto già? Sempre in macchina per lavoro, sono a casa dalle 9 in poi e basta a casa. Hai detto che vivi in macchina. Va bene, uno non a casa e vive in macchina, va benissimo. Però poi? Sono sempre in macchina per lavoro. Ah, ho capito, usi la macchina per lavoro, io uso il CB per lavoro, così è. Io a casa rientro, guarda, rientro 8:30, 9, sono a cena e basta. Ho capito, ho capito. Andare. Ma quindi adesso stai lavorando? Adesso sono uscito dal lavoro mezz'ora fa, adesso sono in giro in macchina, faccio un po' di commissioni per casa. Ah, no, ho capito, va bene. Quelle vanno fatte, eh. Gianni, riprendi il microfonino. Gianni doppio, doppio rum. Sempre occupato, e sta chattando con la tipa, sempre così, molla stare tutto, che ti porta una cattiva strada alle donne. Già, non ti rovinare la vita. No, una amica. Abbiamo un amico CB su padone. Vabbè, quello è poco sicuro, ci deve essere uno, eh. Attenzione Caieci, il Superdini. Prima ce l'avevi già il baracchino o l'hai comprato da poco? No, io ho avuto la baracchina, mi sembra dagli anni, forse agli anni 90. Ah, negli anni 90, ho capito. Prima è iniziato mio fratello grande, anche una riserva, poi io. Diciamo che prima ce l'aveva il fratello e poi anche lui si è preso la passione. Da. Ah, no, ho capito. Io disgrazio, per meglio dire. E le persone, dove la donna che usa il baracchino? Cosa? Io la passione andare a cercare donne che aprono il baracchino. A cercare donne andava. Meglio la passione di andare a cercare qualche bella dudicciola. Avanti Eugenio, tu l'ascolti bene in radio adesso. Ma chi è Cristian? Come posso ascoltarlo bene se mi arriva, non mi muovo manco lo speaker dell'apparato? Perché a volte non esce un po' impastato, ma oggi già sta uscendo meglio. Adesso mi sposto un pochettino, dai. Cosa qui? Adesso mi sposto di zona, dai, è una zona più alta di Sassari. Capito cosa hai detto. Adesso com'è? Parla piano, che tu non vedi un bel prezzo, non si compra di nulla. Adesso mi sposto di zona, e vado, zona alta di Sassari. Ah, ho capito adesso, che mi sta spostando di zona, va bene, ho capito. Vai al centro. Sono giù via Budapest. Va, se non ne voglia ci vado io. Avanti io, Eugenio. E tu al lavoro come sei messo oggi? In ferie. Sono in ferie. Mi avevo 27 giorni ancora dell'anno scorso e me le sto facendo. Tutte insieme te la fa? No, adesso me le sono prese. Una decina di giorni, va. Una decina di giorni. Un po' di noi. Diciamo che anche c'è il rischio adesso, ma la sorte con tutta questa gente che sbarca, c'è il rischio alto. E vabbè, noi già siamo tutti vaccinati, niente, usiamo anche la mascherina. Niente, ne avevo 27 giorni dell'anno scorso me le ho fare, me ne sono preso 10 giorni adesso. Inizio a fare, se non mi si accumulano è un casino. Vabbè, fa. E vabbè, io una volta ne avevo 80 giorni, se me li ho fatti pagare. No, pagare, ui. No. Non c'è lira che tenga, non c'è euro che tenga per avere tempo libero, ui. No. Ma magari me l'hanno proposto anche loro. Te, già, te le mettiamo in busta? No, dammi i figli a me, non me ne frega un cazzo. Non frega niente, i figli pagati, io voglio tempo libero. Ma loro sono stati onesti, non è per 80 giorni, non ce la facciamo a dartene. Se le paghiamo un po' e per dire che abbiamo due settimane, capite, gli altri le paghiamo, così ho fatto. No, io me l'avrei fatto 80 giorni. Sì, no. Sarei fermato una settimana lavoro, una settimana di fede, una settimana lavoro, una settimana di fede, no, me le sarei fatte tutte. Ma non è possibile perché non c'è nessuno che a me mi sostituiva, capito? Quindi, se non c'è nessuno che ti sostituisce, cosa fai? Una settimana, due settimane ti possono anche sostituire, ma poi deve ritornare al suo posto, chi mi sostituisce? Insomma, se ti sostituisci una o due settimane puoi anche alternare, no? Una settimana ti fa il tuo lavoro e lui si fa il suo, poi te ne vai in ferie e lui ti sostituisce una settimana, tu rientri, già c'è il modo, e a voglia se c'è il modo. Ma secondo loro non è possibile. Ha detto che guarda, io sono sincero, non ce la faccio da 80 giorni, te li pago. Ha detto almeno due settimane le voglio fare perché devo riposare. Sì, quello sì, va bene. Poi il resto te lo pago, vabbè. Siamo messi d'accordo lui. Ah, mi si deve essere d'accordo così. Cioè, io me le sarei fatto pagare, come me le sarei fatto pagare? No, io mi sarei preso tutti i giorni liberi, avrei trovato un'altra formula, ma mi sarei preso i giorni liberi, no. Non c'è moneta che tenga per avere il giorno libero, voi. Se tu pensi che io prima prendevo una settimana all'anno di ferie, non ti riguardo. Male, molto, ma molto male. E così me la davano. Purtroppo era quella. O mangiavo con la luce e saltavo dalla finestra. Il periodo che noi dobbiamo andare in ferie d'estate è il periodo che noi lavoriamo di più, per cui massimo una settimana e te la davano anche a novembre, il periodo dei muri. Caro, ehi, a vista, così è. Ma dove sta lavorando adesso? Io facevo manutenzione ai campi di tennis. Sta facendo campo da campi da tennis, ma con qualche società. La manutenzione per campi da tennis. Ah, ho capito. Acciogabito, cosa fate? I prati, cosa fate? No, faccio prati, aggiungo le tensioni, le reti, pulisco le armi dei fianchi, che lavoro lì? Ah, è un bel ferro, là, sempre il tuo lavoro. Sì, lo metto l'ordine ai campi. Ma lavoro, è sempre verde? No, lui è fabbro, capito, fa la recinzione del campo. La recinzione dei campi, ho capito. Recinzione e manutenzione. Fate Rogero. Uscitele tutti a pillo in italiano. Faccio da più io Gino, Ho già, Gianni. Ehi. La sera dopo le 8:30, 9, state entrando? Io no, perché mi guardo il televisore a quell'orario. Praticamente mi sdraio, dai, e mando i saluti agli amici, tutte queste cose qua, quindi non ho tempo la sera, poi disturbo, magari c'è quello di fianco che gli do fastidio, capito? Non mi va di sera. Quello di fianco chi? Ma perché stai disturbando il televisore? No, se da parlare non ti sentono, quelli che ci sono a fianco, il muro a fianco. E cosa vai? I muri da sapessa. Si sente tutto. Si sente anche quando fanno zoghizzo. Si sente anche quando? Quando fanno giù papà. Addirittura, lì che è qua. Eia! Gli appartamenti che a cappella stanno facendo adesso. Sono i miei, sono anche, come si chiama, isolati, tutto quanto, però si sente lo stesso. Quando tu abiti in una casa, diciamo, singola, ma non abiti in un palazzo, nei palazzi così. Ci ho abitato 40 anni in condominio, ma i miei non era così. nella mia stanza non, che confinava con un'altra stanza, non sentiva niente. E si sente? Io sento. Anche quando vanno a fare la pipì da notte si sente tutto. Addirittura, i capita, no, no, i capita. Ciao Magazza. Si sente quando scende la pipì tutto qua. E che cavolo, quando mai? Ma io ci convivo con queste cose, oramai sono tranquillo. Non mi dà fastidio nulla, capito? Mi sono abituato. Anche quelli di mamma, le case, non si sentiva niente, proprio era di ribuita chitta, già lo vedi, per fare un buco per mettere il contattore interno in casa, perché prima ci avevano mettere il interno, poi ci avevano fatto mettere i fusi alle scale. Beh, fatto sta che per metterlo interno in casa ho dovuto fare un buco, abbiamo chiamato lo scalpellino, che è quello che è proprio specializzato nella trachite. Quando lui picchiava con lo scalpello uscivano le schegge, la trachite esce a schegge, usciva la scintilla. Beh, lo sai cosa ha fatto? La punta dello scalpello l'ha fatta come dove batteva col martello, la stessa cosa, si è appiattito, grazie, sono riusciti, hanno dovuto usare il cango per fare il buco. Quelli sono moribondi. Se mi stai dicendo che si sentono anche quando trommano, buonanotte. Non è che si sentono loro, ma si sente scivolio del letto. No, ma che ci cosa? Sta cosa? Cristian, c'è ancora Santossola? Cristian! Gianni! Ma sei ancora Santossola? No, mi sono spostato. Dove sei adesso? Via la Cofele. Cristian, se sta camminando non parlare al baracchino, che se ti trovano ti debita la battente direttamente. Intanto non viene i municipali in giro. A me mi hanno preso sulla DVD, proprio alla battente a 72 km orari, c'è al limite di 50. Io era 72, mi hanno preso tre punti la battente più la multa. Io in moto. A me l'otto me l'avevamo presa un mese e un giorno e 10 punti perché era 80. Dove a posa? Era 80 sulla 131. Chi? Vigili urbani o la polizia? No, la polcrada, quella di Ozieri, i bastardi. Ti hanno messo tutti, cioè quanto è superato di limite, era 50 di limite. 50, io ero 80, ma senza accorgermene proprio, ero con mia moglie dietro. Guarda, hanno dovuto, perché io ero dietro un articolato, no? L'articolato non sono riuscito a fermarla, l'ho fermato a me, ma io mi sono fermato con tutta tranquillità, non è che... Cioè, non stavo proprio pensando alla patente, sinceramente, che mi potessero levare la patente. Mi sono fermato tranquillamente. E niente, si sono consultati tra di loro e poi prima si è avvicinato uno e mi ha detto quasi la dobbiamo sequestrare la patente mi dovete sequestrare per quale motivo? Perché qua è il limite 50, lì era 80, mi hanno fatto vedere un numero con tre laser, con la pistola là, e dicevo vabbè, strano, vabbè, attribuite questo numero alla mia moto, fatto che mi avete preso frontale. Questo numero questo 80 a me non mi dice niente. Dovete attribuire questo numero 80 alla mia moto. Se mi fate vedere questo 80, no, dato me l'avevo presa un mese e un giorno. L'avevo vinta la causa, però mi hanno fatto stare a piedi un mese e un giorno. Te l'hanno presa? Sì, me l'hanno presa la patente, me l'avevo presa. 10 punti. E poi cosa ho dovuto fare per riaverla? Ho fatto causa, ho messo tutto in mano all'avvocato. Siamo andati al giudice di pace e l'ho vinta. Loro non si erano neanche presentati. Ah, lo sì. Comunque al limite 50 andare a 72 è come andare a 50, non stavo correndo, fossi stato a 120, cara, ti posso capire, ma non stavo correndo, ero tranquillo. A 70, cosa mi dici a tu, lo sai che guidi? A 70 c'è del debbiato. Ma non te ne accorgi nemmeno, secondo che macchina hai, non te ne accorgi nemmeno. Se sei a 70 a 50, non ti rambiti in mano. Ma io ero 80 e morto, e ho parlato con mia moglie, no? Ho girato, sto parlando con mia moglie, non me ne sono neanche accorto, proprio ero tranquillo, e niente, me l'hanno presa lo stesso. E ti hanno fatto lasciare la bottiglia? No, mi hanno fatto arrivare a casa, con un foglio, mi hanno fatto arrivare a casa. Ho messo la moto a casa e vabbè, la patente sarà tenuta. Non ci credo. E a lavorare come facevi? E a lavorare scendevo ogni giorno, o svegliavo mia moglie, mi facevo accompagnare da lì quando pioveva, se no scendevo in bicicletta. Non ci credo. Vedi tutte le cose che causano, cazzo. Oh, yeah. Vabbè. Purtroppo è così. E adesso se ti trovano con il cellulare o io ti posso dire col baracchino, col microfono e baracchino in mano, tutto quanto, ti devi dare il tutto, ti sequestrano il mezzo, non so cosa tutto fa. Bisogna vedere, bisogna vedere. Ti fanno osservazione anche se ti trovano bevendo una lattina di Coca-Cola in macchina, camminando. Se ce l'ha appoggiata la tutta bene. Sì, ma è come che hai qualcosa, cioè non è solo il microfono e il telefono, è proprio avere la mano impegnata a fare un'altra cosa che ti fa l'osservazione. Se tu stai camminando e ti vedono bere una lattina di Coca-Cola, è la stessa cosa di avere un telefonino o un mic in mano, la stessa identica cosa. Ah beh certo, se stai bevendo, sennò io pensavo se l'avessi anche appoggiata. Ma per dire, il telefono si può usare, nemmeno se si ferma al semaforo, non si può usare. No, devi avere, vabbè, con la tecnologia di adesso c'è Bluetooth, è tutto, quindi chi è se continua a usare il telefono vicino all'orecchio? Vabbè, chi ce l'ha la tecnologia? Cioè io vedo donne parlando al telefono con la macchina distratte, guardando, anche messaggiando, camminando con la macchina e messaggiando. Sì, quello sì, usano molto WhatsApp, i messaggi vocali. Vabbè, però se dovesse succedere qualcosa sono fatti loro. E adesso, cavolo, adesso sono molto severi certe cose, non è che hanno tutti, perché vabbè, anche a me è successo una volta, mi hanno chiamato al baracchino, sono andato a rispondere, cazzo questa macchina mi frena di colpo, buh, era di tamponata. Vabbè, com'è andata a finire? Andata a finire niente, che ho accompagnato la tipa che stava guidando l'altra macchina, ho accompagnata al pronto soccorso, eccetera, eccetera, gli ho fatto l'assicurazione, che dovevo fare? Ho sbarrato la macchina mia, la sua molto meno, ma la mia non l'ho sbarrata più. Avevano già chiamato carabinieri o cose del genere? No, assolutamente. Anzi, abbiamo fatto anche amicizia oltretutto con questa tipica. Andare. Va bene, già, io ti abbandono che devo andare a masticare adesso. Ci sentiamo dopo se ci si, dai. Ciao. Ma no, ma oggi non c'è nessuno. Tutti scomparsi sono. Tutti a letto col Covid. Ma sono al canale 20, di solito si spostano. Sul canale? Sul 20. No, ma non credo, ma boh, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, buona sera. Gianni, ci sono io, ma c'ho stazionari e per quello non stavo parlando. Devo fare passaggi brevi perché c'ho stazionari. Ma quanto ne hai, Natale? 2,5. E non l'hai accordato? No, me l'ho comprato stasera, mi deve arrivare. Vabbè, ci fanno metti l'altra, quando la piazza. Appena riesco a piazzarla, purtroppo c'è l'impedimento di quel delinquente. Ma mi ha detto che c'era questo muratore, non so che avvalecchiavi. Se non si è fatto vedere, cosa vuoi che ti dica? Cambia niente e farfallone. Scomparso. E lo dicevi da ieri, se no avrei sempre mezzo di bici. E infatti, è scomparso. Sì, dai, piacerei di tempo a metterla. Un giorno che fa bel tempo, se questo qua si decide. E se non si decide lo facciamo decidere. Eh sì, no, qui la passi direttamente. Non è telescopio colpa, ma la devi legare tutto dove su al piano di su, così la devi attaccare alla staffa dove abita il suo delinquente. E allora? È che costa troppo la scala, se no, perché ci vogliono due scale per togliere giù l'antenna, capito? Che una scala ce l'ho, però un attalito non so se ci arriva. No, vuole 6 metri lunga, che è al secondo piano quello, e bisogna arrivare almeno dove lui. Ma sai quale ci vogliono? Quello dell'Everest, che attaccano una sul lato dei pompieri. Sono in alluminio anche quelle, mi sono leggere. Quelle che usano i pompieri che attaccano una all'altra così. E sono anche veloci, quando le metto, l'ho visto quando facevano gli spettacoli, diciamo, facevano vedere come spegnevano in giri, come si arrivava sui palazzi, là. Ci deve vedere come le montano, salendo e montando. Già lo so come fanno, anch'io lo so fare. Se li muovono a tariffati e si chiedere. E la incastrano e tutto, io ce l'avevo telescopica addirittura che arrivava a 9 metri, solo che l'ha rotta Angelo, in alluminio, bella ragazzi. È che lì la scala aerea ma non so se c'entra, se quel vicolo è stretto, secondo che mezzo è, non ce la fa. Un deli entra. Cosa? Un deli entra. Ah, il deli sì. Lo vendono anche in affitto, lo prendo in affitto, quindi il furgoncino in affitto lo vedi voi, e se no c'è anche con l'autista, chiedo, ma no. Vogliono 800 euro di caparra prima di venire, non ci vengono se non gli dai i soldi. Se no prendiamo un drone e attacchiamo il tubo. Non posso prima pigliare lo barugollarino. Davvero. Oh, in picchiaetto. Vedrai cosa gli faccio a quello io. Io sto sopportando, dopo quando non sopporto più, vado, li butto giù la porta e lo picchio pure. E ce lo butto alle scale. E perde anche la casa perché non ci può più venire a abitare qua. Se lo posso misurare la ricarichi, io sono come a cavello. A chi sono infidiato? Una volta gli ho fatto a uno alla discarica, mi ha fatto uno scherzo di merda. Mi ha messo un sasso sotto il freno del camion, lì c'è la discesa, che poi pare uno stradone che porta a Sintino, lì, a Monte Rosetti. Se vado a frenare, cazzo, il camion andava dritto. Ma come ha già avuto un maccione, mi sono attaccato a un maccione e mi sono fermato così. A volte c'era questo sasso sotto, incastrato sotto al freno. Sono venuto da ridere, ho detto, non è fare più di queste cose. E si sono messi a ridere, cazzo, non ve l'ho fatta più, avevo un gatto, una di questi pittori di giocato con quelle che sfruttano là, non ve l'ho fatta faccia. Ma io non ho più che si sfruttano i levano. Io vado lì e lo picchio forte, e gli butto giù la porta, non me ne frega niente. Il giorno che c'ho i nervi, che non piglio più ragioni, è futile. Ma magari da tu, la digita di tu cosa. Ce l'ha con mia moglie, ce l'ha. Adesso se non metto gli piedi una persona, perché c'ho anche il permesso del padrone di casa io di piazzarla l'antenna, perché non ne sapeva nulla, è anche bugiardo questo. Ti sto dicendo, se non è garabini, su, mi faccio giustizia da solo, perché allora perde pure la casa. A chi dico mi casuzza chi? Io dico qua. Quando sarà, forse mi leggerai in giornale perché lo faccio a pezzi. No, ti compromettere su queste cose. Si trova il metodo, si trova proprio il metodo. Fa sapere le scale, so che con le scale rischi un bene, perché rischiare quando lo puoi fare tranquillamente la cosa. E appunto perciò, adesso devo contattare a quello di condizionatore, se me lo fa lui il lavoro, lo pago e me lo faccio fare da lui. E così non faccio neanche nulla. Mi piazzo solo l'antenna e io e lui. No, io grazie a Dio l'ho piazzata l'antenna, nessuno mi ha distrutta. Speriamo che non mi rompano le scatole, ma adesso non ne dovrebbe più fare più guai l'antenna, perché questa c'è il radiale che sono anche un bel grande. E poi hanno eliminato anche l'antenna VHF della televisione, quindi non disturbi più, a meno che non si avrà di l'antenna VHF che hanno, capito? Ma c'è una cosa per un paluto? Sì. No, adesso non distruggi più, tranquillo. Puoi usare qualsiasi tipo di cosa. Hanno eliminato le VHF, non ci sono più. La RAI trasmette tutto in UHF, tutto in UHF adesso. Un'antenna unica. Sì, già lo so. Adesso comunque non è per il disturbo, è che l'antenna è rotta e c'ho stazionare forte, perché quando piove salgono a 2,5. Capito, zio. Ciao anche a Gianni, buonasera. No, adesso puoi dormire tranquillo e sereno. Eliminate proprio, capito? Sono mi ero affusato stamattina, perché sto facendo l'altro impianto nella dipendenza. Sto facendo un altro mini appartamento, quindi voglio riuscire indipendente l'antenna TV. E praticamente gli ho chiesto, dammi l'antenna, e lui non c'è, no, ma è toccata oggi, tenerò una giù, piazza questa, TV. E infatti ho fatto l'impianto, ho portato la TV, a fare le prove, c'è solo l'antenna un'altra. Disattivato le VHF, capito? Io ieri non vedevo più i canali della RAI. Perché li hanno da ieri, capito? Da ieri notte a mezzanotte, devi risintonizzare il televisore, te li da 1, 2, 3, te li da in HD. Sì, l'ho già risintonizzato, anche se non mi ricordavo come si faceva, perché quello smart TV è un po' complicato, bisogna andare sul menu, eccetera, eccetera. Ah, già l'ho provato prima o poi, non trovavo le istruzioni, non mi ricordavo dove erano, quindi l'ho fatto così, intuito. Ah, sul menu già è quando ti appare la videata, come il computer, dove c'è scritto installazione, clicchi lì e ti dà sintonizzazione manuale, oppure ricerca automatica, ti dà tutto, e ti chiede che cosa c'hai praticamente, digitale, analogico, e tutto, tu le dai le posizioni e fa tutto in automatico, il mio mi ha fatto tutto in automatico, ho fatto un bel impianto anche lì, un bel impianto, sto facendo un altro mio appartamento, ma plantina di metri quadri, molto bella, sta venendo. Oggi hanno terminato il bagno, hanno fatto già tutto, parcheggio, tutto, e piano piano. E quello cosa fa l'affitto? L'affitto, ma c'è bisogno di naio, me lo godo, no, l'affitto. Non perché bisogna di soldi, infatti c'è gente che c'ha i soldi e affitta a casa e tutto andato. Non voglio io mettere i coglioni, io adesso ho fatto la casa singola per i fatti miei, mi pongo niente a mettere i piedi, ma viene qualcuno, no, non c'è problema. È capitato ad esempio che è venuta la sera ad Alghero, solo era tardi e sono rimasti qua, quindi c'erano l'appartamentino suo, due persone, anche tre ci stanno tranquillamente, c'è una stanza matrimoniale, una piccolina, il bagno, l'angolo cottura, mattino. Molto, molto bella. Io tutti i miei sacrifici li sto mettendo qua. E fai bene. Allora, così è la zona e non ti rompe le balle nessuno. Un villone, giù va fatto lì, un villone. È bello del resto. Siamo alla giusta, si intende, non vogliamo mai. Sono uscito fuori, c'era un cucciolo, diciamo, 7-8 mesi, un pastore tedesco. Sono entrati perché il cancello della strada rimane aperto durante il giorno, ti diamo solo la notte, però se sono entrati l'hanno abbandonato. E si è seduto vicino al mio cancello. Ma lì sono uscito bellissimo, mi sono saltato addosso, poi mi ha leccato tutto. C'è Filippo un bel geloso, chiamo ancora la truffa, sono venuti, il nostro comandante addirittura, ho fatto anche il caffè, tutto, mi hanno controllato il microchip non ne aveva, figli di puttana. Allora mi ha detto Claudio, facciamo una cosa, siccome noi non lo possiamo prendere in carico perché non ha il microchip, chiamiamo la comunale, allora sono venuti i vigili, hanno chiamato Roberto, quello che c'è il furgone giallo. L'hanno portato al canile comunale. Infatti, detto, appena arrivi avvisami se c'è un problema, mi chiamano. No, è totalmente preoccupato. Poi mi hanno dato un messaggio, l'ho distratto con la foto, che stava mangiando assieme agli altri cani. Ma lei mezzo figliore di ragazza che. E l'abbandona le guraretti. Ma se non avessi avuto a Filippo me l'avrei preso, ma bello, bello. Cioè le orecchie dritte, dritte, dritte. Proprio si aveva che era cucciolo bello, bello robusto, bello sano. Capito? 7-8 mesi di cane. E quello se lo prendono subito. Sì, infatti c'è quello del canile che è già. Quello che fa le pulizie che è già. Se l'ha già occhiato. Bello mio. Era bianco, sotto il petto bianco, il pelo marroncino chiaro, poi vabbè lo cambia, diventa marrone scuro, ma va via un paio da lei, c'è una gola bella del beccio, infatti la lettera aria tira, come facciamo qua? Filippo non lo fa entrare, come giro giù, mamma mia, poi tutte e due maschi, figurati. Filippo si era via magnato. Ah, forse no, perché il cucciolo, capito, giocherellone, si vedeva, magari no, magari facevano amicizia, però bisognava tenere guentare a Filippo, non usarsi e fare, e vedere se partivano, capito, poi piano piano iniziare a mollarli, però due non me la sento, ma per già mi la tirava a Filippo, e se no non aggiungo il varoganile, no, uno è più che sufficiente, io qua voglio vivere sereno, perché adesso mi sto finendo questa cosa che mi è costata un patrimonio, però sono contento, ma non c'è un altro mini appartamentino, e poi l'estate devono, prima appena inizia primavera, marzo, inizio a lavorare per la piscina, mi faccio la piscina fuori. Ti devo lasciare che è arrivata la 50. Salutamelo da parte. Grazie, sei. Ciao, Francia, un abbraccio e tanti auguri di buon anno. Ciao Claudio, buon anno, buon Natale e buona Befana. Grazie, grazie, sì, infatti domani è la Befana, adesso faccio gli auguri a mia moglie per domani. Io glieli ho già fatti, mica. Ehi, è che mi ha fottito oggi perché io non posso uscire, capito? Però domani già esco e compareggio la gazzetta, la piena tutta i gaimoni. Dice che Franco si sentiva male, si sentiva che era mal di schiena, boh, ed era bucato. Oh, Franco Califfo, c'è un casino, c'è, con questa influenza brutta c'è un casino, un casino. Me lo posso immaginare, io non sto sempre a casa. Io so, non è appunto che abbiamo il nostro vaccino, ci salva un po', però si prende male, ha dolori, ha mal di schiena, nausea, capogino, un casino. Io mi sto riprendendo piano piano, ma è giubilato di tachipirina, di battiti, di burtini, mamma mia, come sto. Vabbè, piano piano, dai. Ci sentiamo allora, Natalia. Buona cena, buon tutto. Io sono qua. Già. cane è andato via. No, sono qua io. Poi gli ha portato già il cane, tu cane. Ia ia. Vabbè, oggi speravamo di finire alcune cosette. Adesso dice che piove anche domani. Pensa, è tutto strano, fino alle 7:30 non è entrato nessuno, è entrato, vabbè, parlavi, è entrato Luca, proprio è andato a farsi la doccia, c'è la Mario di Porto Torres, Mario poi è andato a cucinare, quindi si sono allontanati tutti, e niente, e poi non è entrato più nessuno, se non siete entrati voi. No, la verità è che c'è un problema, perché ero un'altra banda, un amatoriale, e quindi qua c'è quel volume basso. Poi ho visto lo Smith che si è mosso, stavo cercando, sono entrato di una carina per fare cosa, perché stamattina appunto mi ha detto Antonello di Fusaro che ho preso l'impianto, l'antenna, un miscilatore, insomma tutto quello che volevo, abbiamo fatto il muratore e messo il tubo, lo rimane dall'altra parte della casa, separato, poi c'è anche l'impianto lì, TV, tutto a posto, pianto luce è già fatto, non ho finito di tonaccare oggi. E lì dove tu fare la stanza tua con tutte le radio eccetera eccetera. Va Giulio, andiamo a casa, mantenevamo le pendenze, come la chiami? Io non ce l'ho la faccia della radio, questa non è una stanza, ma giù guardo le stanze già. C'ho 200 metri quadri di casa sotto, così vabbè, io non lo so come è fatta, non ce l'ho presente, non l'ho mai vista, quindi non so come è, però stavo pensando, e vabbè, anche cosa ti posso dire, ho visto altra gente che ci ha fatto, per dire, in campagna una casetta lontano dalla casa normale, ci ha messo le antenne e tutto quanto, in una casa a parte. No, sei troppo isolato, ti isoli, io sono dentro casa, io mi chiamano, mi sento, no, non mi piace, io avrei potuto fare anche allora quando ero per Manzi, c'avevo 60 metri quadri di mansarda, già... no, meglio stare qua, sapete, quella è un'altra cosa, no, io qua c'ho la mia stanza, c'ho anche il lettino, figurati, se mi riposo un po' pranzo d'estate, c'ho tutto qua io. Non manca niente, come avevo di là a Carbonazzi, solo che lei era più piccola e il lettino non ci stava, invece qua c'è il lettino, tutto qua, c'è le solite basi, tutte le radio che ho comprato, che ne stanno arrivando, che ho fatto, no, non devo fare baracche, io non ho già le antenne, se non fare antenne, io antenne ce le ho già, non voglio di far nulla, ho comprato una verticale 5 bande, 10, 15, 20, 40, 80, che ancora non ho piazzato. La Mantova, la Smartex, boh, finiti giù, che non ha giù buoniato io, cos'è la giù di buonito? No, rovino le tette che era a casa, il giardino, e tu mangio con fare tutta la casa per mettere antenne, non ha giù buonito antenne, tradici io, non devo mettere niente, io mi devo solo riposare, godere tutto, fate fatele, a marzo lo metto la piscina e il giardino, quindi. Break! Avanti! Buonasera a tutti! Buonasera a lei! Doppio lungo a questa parte! Non mi conosci! Ah, buonasera signor Antonio! Ma manco più Antonio mi conosci! Lo stavo dicendo scherzando, mamma mia, già ti ho riconosciuto! Ciao Antonio, buonasera a Coppiaros! Buonasera anche a te! Non mi conosci più nessuno in occhi, no? Cosa le bubba? Troppo forte. Claudio. A quanto sei tu il Green Pass? Te lo chiedono anche fuori al bar. Non lo so, hai l'aria devo chiedere. Ia. Il Green Pass anche fuori lo chiedete voi. Non è sicura però, perché esce a casa e non sta bene, però se passiamo in zona arancione sì. Allora, no, ieri siamo andati in un bar, e piazza Colonna Mariana, sotto il bar che c'è. Siamo andati a prenderci un caffè in tre e praticamente il tipo è venuto il caffè, eccetera, eccetera. Insomma, un momento dopo è venuto, certo, ci ha presentato il conto, ci ha detto, mi date il Green Pass? Certo, Green Pass. E ce l'ho solo io qua il Green Pass. Ma voi lo sapete, la legge qual è? Ha fatto un po' di studi. Ah, scusi, dice, lo vede quel bar che c'è di fronte? Quello è chiuso perché non hanno trovato il Green Pass alle persone che c'erano fuori. E le hanno chiuso. Io non voglio fare la stessa fine, gli ha detto. E questi amici hanno dovuto bere il caffè in piedi, andarsene subito perché dicevano, no, guarda, alzatevi perché sennò sono costretto qua, là, boom, va, tombe di studi. Vabbè, io gliel'ho presentato, il mio l'ha preso e niente, gli altri non lo avevano. Non lo so già, non lo so, non lo so, non lo so. Io la mattina vado via Carlo Felice, via Maria, non c'è più, da Cicci, le prendo il caffè, le sigarette, non mi trattengo, ma vado subito, quindi non mi siedo, ma domani provo a chiedere se stanno chiedendo di ripassi fuori, ma non penso che fuori sia obbligatorio. Allora io in questi giorni ho avuto modo di andare di due o tre bar così, quindi sono andato a Bar Azzurro e non me l'hanno richiesto, per dire, lì in Piazza Azzurri, non me l'hanno richiesto che basta. E siamo andati lì pensando che si potesse prendere all'aperto, invece niente, no. Questo qui ci ha fatto storia ed era anche nervosito un po'. Sì, è in bassa, quando erano nervosi era in bassa. Avanti, anche tu. Stavo sentendo, mamma mia, un magazzino, non ce ne può più uno di questa storia. Stavo sentendo pure io, ma adesso all'altro mese mi prenoto il vaccino, al terzo. Andiamo a ammazzare, che ognuno canto per me. Non hai visto, stanno prendendo la legge, adesso vediamo se passa o non passa. Ogni 6 mesi ci dobbiamo vaccinare. E non siamo una farmacia, a me. No, raga, io non la faccio più, sono tutto a pezzi. Sono tutto a pezzi, così non la posso più, ce la vediamo ancora, tanto. Io ne ho già due, se vediamo, farò il terzo, basta, boh, finito. Io l'ho già fatto dal 24 dicembre, ero andata dove pensavo che non ci fosse nessuno, mentre invece sono andato lì, ero appuntamento alle 9:30 e c'erano già una quarantina di persone prima di me. No, io non posso fare già ancora, è troppo presto, sono stati 2 mesi, la seconda non posso farlo. No, io l'avevo già fatto già circa 6 mesi, 6-7 mesi forse, l'altro, il secondo. E vabbè, comunque, mi ha fatto male al braccio, come al solito mi ha cancarato il braccio, e niente, poi un po' di stanchezza, malato il primo giorno, poi il secondo giorno non c'avevo già più nulla. Gappa, gappa, vabbè, però vogliamo farlo, non c'è niente da fare. Le cose stanno cambiando, stanno aumentando, c'è mezza Italia già in zona arancione, quindi penso che anche in Sardegna arrivi la zona arancione e allora siamo nuovamente tutti limitati. Vabbè, voglio che ti dica, vai Anto. Però io veramente non riesco a capire più niente. Siamo tornati punta a capo, siamo tornati, allora cosa siamo andando a fare che c'è roba? Dice, c'è gente che non ha fatto di vaccino, si è sentita male lo stesso, uguale come ci sentiamo male noi, uguale. Cioè, io non capisco cosa è questa cosa. Cazzo, cosa ti sto pigliando ancora a fare un guro? Lì comunque c'ho qualche dubbio che ci siano positivi, alzo le mani, c'è qualcosa di strano che non va. Però avrà a vedere fra poco, ma va, sono tutti un casino, burumum, burumum. Come ti sa fare un caso, vedi che comincia a diminuire e cominciano, non si sa mai che qualcuno in vacanza non ci vada quest'anno. Sta cominciando praticamente manco il quarto vaccino, manco il terzo vaccino, vabbè, stai già cominciando a dire che ci vuole il quarto. Ma noi non siamo una farmacia già, cioè non va bene così questa storia. Mi sa che ci prima o poi ci ammaleremo di qualche altra cosa. Ma infatti, ma io guarda, penso che arriveremo al settimo vaccino e non ne concludono niente. Quello che c'è è che quando fai il vaccino la prendi in forma più leggera. Però per dire, la mia ex moglie l'ha presa in forma pesante e non riusciva a parlare, mal di gola forti, dolori, non riusciva manco a muoversi. Mi figli, Manuela l'ha presa lo stesso un po' pesante, Marco invece è asintomatico, non aveva nessun sintomo ed era positivo. È un casino già, a me mi ha preso dolori, un po' di nausea, capogiro, un po' di raucedere, ma niente di che. Mi sono ripreso subito, tachipirina di brutto, bustine per i dolori, antinfiammatori, eccetera. Capito? Tutto qua. Vabbè, comunque, è una bella rottura di balle, credetemi, e chi non ci crede a queste cose sta sbagliando. L'altro giorno ho sentito Mario, appunto, e lui è uno di quelli che non crede a queste cose, vabbè, pazienza. Però credetemi che chi non ci crede deve stare molto molto attento. Ma io sono un po' scettico lo stesso, non è che cosa, perché è troppo strana la cosa, ma dobbiamo fare una vita così. Dobbiamo stare tutta quanta la vita così, ditemelo voi, cioè con chi c'è cazzo di mascherina, nelle torrende, chi c'è, chi d'altro, oh, mica siamo già dove, cioè, arriveremo quasi al terzo anno con questa storia, ma di cosa siamo favvedente? Non ho mai visto un vaccino che dure così tanto, è logico che io in questo periodo, scusate un attimino, è logico che io in questo periodo mi prendo i malanni, ma è normale, ce li abbiamo sempre presi al periodo freddo, è sempre così, cioè, però io non credo neanche una cosa, cioè lo stanno facendo passare tutto per coronavirus, ma poi non è vero, secondo me non è neanche così. Cioè, gli malanni con questi sintomi qua di stare male e cose, ce l'abbiamo sempre presi, o dimentichiamo il passato. Ci vuole mio duro. Ciao, Gabriele. Non lo so, comunque, ripeto, è una cosa un po' grave, molto. Molto, molto grave. Quindi bisogna stare molto attenti, massima attenzione, un po' a tutto. Avanti tu. Via, buonasera, io ho un bel po' di mal di testa poco fa, sono preso una bustina, io vedo ci soffro come un cane, guarda. Via. E Antu, per il Covid ci vuole il mio duro. Vai al farti controllare, vai, che cazzo sei troppe volte così, sì. Lu, sei sempre a mal di gambo. Non è bello, non è cosa bella. Poi vabbè, ma ci ho sempre sofferto io. Allora mamma mi diceva sempre da ragazzino, quando ci uscivo la testa bagnata, di non uscire con la testa bagnata, poi in moto. Io me ne fregavo le palle, ero bello, non sentivo niente. Adesso ne sto prendendo le conseguenze. Ebbene mi sa. Buonasera. Ah, già, Artrosi cervicale, chissà, eh. Sicuramente, ma sto uscendo, sì. Capo che sta uscendo, ma mi pare a Massimiliano, guarda. Avanti, chi è che vuole entrare? Massimiliano, tu sei? Niente, sono Massimiliano. Ho sentito, signori, buonasera. Ha parlato sopra di me, non lo so, io non ho sentito. Manco Deo. Chi era? No, non ho sentito io, non so chi sia. E comunque è tu, diciamo... può essere anche come dici tu che stiamo un po', però io conosco una persona che ha detto quelli che io non ci credevo, purtroppo sono stato in ospedale quasi un mese e mi ho visto la morte in faccia, dice fate per il vaccino perché non è cosa da scherzare, anche io prima non ci credevo. Purtroppo ci sono anche le persone che hanno appurato in maniera diversa da questa forma influenzale che c'è, perché quello che c'era prima era ancora peggio. Adesso ne uscirà un altro sicuramente, questo l'hanno chiamato in un nome, con un nome, adesso ne chiameranno un altro, saranno sempre da fare vaccini, sicuramente così, sarà sempre così, arriveremo al settimo, all'ottavo vaccino. A me mi pare più business e tal cosa che altro. Ah. Ma c'è anche quello! E quello c'è di mezzo, anche quello c'è di mezzo. C'è anche quello, perché io ho pagato le mascherine l'altro giorno 2 euro l'una, quelle, diciamo quelle che si mettono adesso, 2 euro l'una. Quando le stanno pagando 85 centesimi, a Roma addirittura 25 centesimi in una farmacia le vendeva. Lo so, vabbè, è così. Va bene ragazzi, io vi saluto, vado a mangiare un boccone, se ci siete a dopo lascio tutto acceso. Ciao Antonio, Gianni, Luca e chiunque fosse in ascolto. Ciao ciao. No, anche io me ne vado, dai, cioè, ci sentiamo ragazzi. A domani. Ciao Claudio, buona carica quando la fai. Ciao a tutti, sto chiudendo anche io perché anche io vado a mangiare. Dai. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao ciao. Ciao Luz, ciao. Ciao Claudio, ciao Cattegiani. Ciao, ci sentiamo. Ebbè, sei spariti siete. Oh Luca, guarda che io sono a farmi la doccia. Ok, dai, io me ne passo il soggiorno allora. Kappa.